frittole girano le bicchierate di sostanze strane. No, non sono strane, sono solo alcoliche. La birra più beverina che ci sia per accompagnare la trasmissione, più simpaticona che ci sia. Birra scura. E un benvenuto a tutti quanti, a tutte quante, gli ascoltatori e le ascoltatrici, in questa nuova puntata. Ma siamo con la diretta speciale a frittole. Torno a noi e torno a me, ci sono un bel po' di gentaglia, qualche ospite nuovo. E Baby Manin vi saluta insieme a. Insieme al Doctor. Doctor Io, Doctor Voi. Insomma, buona serata. E ne verendo ai controlli, la tecnica ineccepibile. Doveva andare in vacanza, ma non ce l'ha fatta. È troppo forte il suo attaccamento a frittole. È ancora una volta rimasto bloccato qui a perfezionare la regia uomo. Dovreste vederlo, le sue mani sul mixer sono come le mani di un pianista. E poi abbiamo un ospite veramente speciale, è nuovo, è una novità, lui non è mai stato qui a frittole e ci ha raggiunto perché siamo congiunti tutti quanti e ci siamo sposati con questo nuovo ospite che vogliamo salutare e abbracciare. Benvenuto! Buonasera a tutti, mi presento, sono Palmiro, è un onore essere qui con voi stasera a Frittole Studios con Dottor Io, Dottor Tutti Noi, nel cuore reverendo a il volante di questa macchina spericolata che è questa frequenza, questa cosa strana che si trasmette. Con Baby che ci darà notizie importanti, notizie pesanti, ci farà riflettere un attimo su appunto il contesto sociopolitico che ora ci sta attanagliando e le cose strane e contraddittorie che questo Stato sta commettendo contro i suoi figli cittadini, figli illegittimi. Sono molto contento, molto affezionato di essere qui con voi come disturbatore, tra l'altro, osservarvi e vedere come vi coordinate, ecco, con destrezza armoniosa, con le mani vellutate sui toni alti, i timbri del mix, sui microfoni, le notizie. Quindi spero veramente con piacere di farvi piacere, di essere una buona compagnia. Quindi buona serata a tutti da Frittole Studios. Subito un cento e lode per... Sembra nato in uno studio radiofonico. Sì, grazie Palmiro, ti diamo anche noi un caloroso benvenuto. E prima di andare a esplorare tutti i vari temi di cui approfondiremo in questa nuova puntata, direi che va bene, insomma, possiamo anche starci. Saluti, mandiamo un pezzettino. Sì, salutiamo Albus, che è il nostro carissimo Albus, che è già, anzi, era connesso ancora prima che lo fossimo noi. E grandissimo, ci sta già scrivendo sul pad e quindi colgo l'occasione per invitare tutte le splendide entità all'ascolto in questo istante di contattarci sullo splendido pad della diretta, in cui potete scrivere in diretta. Andate direttamente sul blog di Radio Wombat, quindi wombat.noblogs.org, e lì accedete al pad. E inoltre, per stare in contatto con noi, vi ricordiamo anche che potete scriverci a frittole@gattini.ninja. Scrivete tutte le vostre critiche, tutto quello di cui volete che noi parliamo, richieste musicali, insomma quello cavolo che volete, insomma, se volete mandarci a fanculo fatelo lì e noi vi risponderemo in diretta. I say he means road. Oh yes. Accused, we're fighting lawyer. He giving case to prosecutor. He means road. Oh yes. He means road. Oh yes. He means. his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. He go for prison. Oh yes. He go for jail. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. Driver, we enter one way, he go jam magistrate for road. Give me his road. Oh yes. Give me his road. Oh yes. Give me his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. He go pay fine. Oh yes. He go for jail. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. Musician, we're carrying band. He play for Union of Deaf and Dumb. Give me his road. Oh yes. Give me his road. Oh yes. Give me his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. He go play for nothing. Oh yes. He go play for nothing. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. We run from bush, enter Lagos, he enter bus. Give me his road. Oh yes. Give me his road. Oh yes. Give me his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. He go cause confusion. Oh yes. Driver go stop. Oh yes. Bus go break. Oh yes. Passenger go scatter. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. I say give me his road. Oh yes. If you miss your road, not come my way, I beg you. Don't come my way. I beg you. Don't come my way. I beg you. Don't come my way. I beg you. Don't come my way. I beg you. Don't come my way. I beg you. Don't come my way. I beg you. Don't come my way. I don't want your trouble. Don't come my way. Don't find my trouble. Don't come my way. If you miss your road, not come my way, I beg you. Don't come my way. I don't want your trouble. Siamo in compagnia di Fela Kuti. Siamo in compagnia di Fela Kuti, che ci accompagna in questo viaggio del venerdì. Se non ve ne eravate accorti, è venerdì. E ci scrivono anche che siamo tornati sull'AM, per cui se siete a Firenze, soprattutto Firenze Nord, potete sintonizzarvi sui 13.59. Gran cosa, Radio Wombat. Rivola sulle frequenze dell'AM, quindi se avete una vecchia radio ascoltatela, ma no, troppo vecchia, insomma, e siete in quel di Firenze, questo resto. Allora oggi dai, iniziamo un attimo così. Oggi è il 15 maggio, quindi oggi è l'anniversario, è il 72esimo anniversario della Nakba palestinese, e quindi 72 anni fa iniziava l'oppressione dello Stato di Israele, del sionismo sul popolo palestinese. Quindi vogliamo invitarvi tutte e tutti a informarvi e a seguire la puntata che c'è stata di Buongiorno Palestina due giorni fa qui su Radio Wombat. Quindi andate pure a riascoltarvi, a ricercare la puntata sul podcast, e poi vorremmo segnalarvi appunto questa iniziativa appunto per il ricordo e di sostegno al popolo palestinese, quindi un'iniziativa mondiale che si svolge oggi per il giorno della Nakba, e dalle ore 20 c'è questa grande maratona mondiale online, quindi il Nakba dei Rally, alla quale vi potete segnare e iscrivere sempre dal blog di Radio Wombat c'è il link per accedere a questa grande connessione mondiale in cui ci saranno una serie di interventi e di condivisioni sul tema. Facciamo un omaggio a Tony Allen. Non so se ci vuoi dire qualcosa, Palmiro. Sì, molte, diciamo, e anche poche cose, visto la grandezza. Comunque Tony Allen, un grande batterista, un grande, diciamo, un grande attivista politico, soprattutto della Nigeria, visto che era nigeriano, famosissimo per aver collaborato, sempre suonato in tutta la sua vita, fino alla sua morte, con Fela Kuti. Anch'esso un grandissimo attivista politico che ha coinvolto il mondo intero nelle sue battaglie con la sua musica. Ricordiamo oggi la sua morte a poche settimane dal suo decesso, appunto il 30 aprile a Parigi per un aneurisma, e appunto volevamo omaggiarlo mandando uno dei, diciamo, di quello che quantomeno io penso sia uno dei suoi pezzi e dei brani migliori, ecco, che rispecchiano molto anche quella che è la vita travagliata della miseria di Lagos e del grande delta del Niger. Buon giorno. E allora la mandiamo subito. Now, that's music. The situation here is not so good. Situation here is not so cool. That's why. Don't take the boy Johnny. My brothers, don't take the boy Johnny. My sisters, don't take the boy Johnny. My brothers, don't take the boy Johnny. My sisters, don't take the boy Johnny. My brothers, don't take the boy Johnny. Serata per l'Africa. Si rientra un po' traballante. Un po' così, un po' nella confusione, nel delirio. Traballando. In questa scaletta disordinata. Grande, grande Palmiro. Palmiro è, si trova veramente a casa sua in questo studios. Devo dirti, sì, sì. Io penso che tu abbia perfettamente ragione, perché i bugigattoli sono a casa mia, i tuguri illesi, dove no, dove nasce la creatività, dove ci si può sentire appunto tra in questo, no? Odore di intonaco cadente. E soprattutto di intonaco cadente. Che ti rinfresca le narici, tra fisico l'altro. Anche, non solo sì, l'odore, sì, ma proprio l'intonaco che ti cade addosso. Sì. Queste bolle nel muro di cui abbiamo già parlato, che sono sempre più grosse, più un po' scoppieranno. Tra l'altro, che vanno a mascherare appunto dettagli di un contesto, che di uno schema che ancora non c'è chiaro. Stasera sono confuso. Allora, quando vorrai confonderti in compagnia, sai dove arrivare, dove andare, qui, cioè qui a Frittole, poi confondiamoci insieme. Confondiamoli allora, tutti. Ed è anche questo poi l'intento di Frittole, comunque accoglierti e confonderti, e non so, forse farti esplodere la testa vaghe. E poi ricomporla in una nuova forma che tu non avresti mai aspettato. E va bene, sì, insomma, ecco, questo mi sembra molto, molto appropriato. Vabbè, una bella descrizione. Comunque, oltre a essere un abile oratore, caro Palmiro, lo possiamo dire che sei anche un freestyler della Madonna. Possiamo dire che sono non un freestyler, diciamo che mi piace. Ho affinità con il rap, con l'hip hop, diciamo tutta la sua cultura, dalle sue radici. Non posso dirti una fede, perché effettivamente non è così. Però sì, mi piace rappare. E avremo questo modo di sentire un saggio delle persone. Quando vuoi tu, caro. Sì, quando vuoi tu, dal calma, vivo. Dal vivo, volentierissimo. E poi già non mi ricordo quando, qualche puntata fa abbiamo mandato qualcosa. Sì, devo dire, tra l'altro, sono contentissimo. Dio me la mandi cattiva a schiaffeggiare la mano di colei che vi ha mandato la mia registrazione, integerrima. Un po' scontento della qualità, essendo stata una bozza, ecco. Ma la roba casereccia. Casereccia, cioè sì, tra il materiale urgentistico, definirei dire. Materiale non urgentissimo. Era, però ecco, non era venerdì, ecco, ricordiamolo, era l'altra. L'altro momento d'oro di Frittole era il mercoledì di Radio Contado. Scusate, continuo a confondere. Per togliere, è tutta un'esperienza radiofonica. Alzo le mani dicendo che tutto ciò era stato compiuto a mia insaputa. Quindi la mano del colpevole non proviene dalla mia tasca. Capito, Grebano. Fischieranno le orecchie. Ma giungerà il momento, forse stasera, forse non. Ma giungerà il momento. Sorpresa. Tienici sulle spine un altro po'. E voi, entità carissime all'ascolto, siete sulle spine per ascoltare queste perle? Fatecelo sapere. Stasera su Frequenze Vaghe. Allora, Frequenze Vaghe. Ah, ecco. lo lanciamo l'altro concorsone di cui stavamo parlando prima? Lo lanciamo ora? Reverendo, volevi fare una presentazione? Sì, vorrei dire che siamo in fase di ridefinizione di questo spazio radiofonico. Ormai le dirette speciali non fanno più effetto. Questa pandemia non fa più effetto. Passata di moda. Sì, non ce ne frega neanche più dei surrogati di presenza. Non c'è più gente che scappa. No, c'è ancora e ve ne parlerò. Però detto questo, dobbiamo cambiare, dobbiamo evolverci, perlomeno capiamo come chiamarci, perché un programma radio che va in onda su Radio Wombat e inizia per radio qualcosa, quindi Radio Contado, c'è già, e non vogliamo continuare a prenderlo in giro. Non vogliamo replicarlo. No. E Radio Contatto si trova davanti a un bivio e probabilmente questa sarà una delle ultime puntate e vogliamo capire che... vogliamo che voi ci aiutiate, anzi, a capire come si chiamerà questo nuovo spazio. Tanto immagino che rimarrà un contenitore aperto al cazzeggio estremo. Al cazzeggio estivo, visto l'andamento stagionale. E quindi aspettiamo i vostri suggerimenti, come volete che si chiami questa trasmissione, come volete che si chiami questo spazio. Raccogliete, scriveteci a frittolegattini.ninja e una giuria di esperti selezionati selezionerà a suo insindacabile giudizio di preferenza il nome più bellino. E il suo promotore verrà premiato con uno dei nostri famosi ricchi premi. Parole sante, fratello. E Palmiro, no, te tutto questo perché avevi tirato fuori un nome e mi piaceva già così. Ma era Frequenze? Me lo sono già scordato. Sì, il nome era Frequenze Rurali. Ecco, Frequenze Rurali. Per rimanere attinente a due contesti a noi molto vicini, per non essere poi ripetitivi. A detta delle lamentele, ora forse dei giudizi obiettivi di nostro signore reverendo, che appunto si lamentava della ripetitività, perché tutto inizia col radio. In un mondo pieno di piattaforme tecnologiche tutto inizia col radio, perché poi tutto inizia con la radio. E allora ero teso a suggerire appunto ciò che la radio utilizza per essere trasmessa o per trasmettersi, la frequenza. Le ondine, elettromagnetiche. Quelle circolari. Sei un affabulatore, Palmiro. A me le tue storie mi ingarbugliano. Io... E sento in me nascere una passione verso la tua voce. Guarda, non ho parole, ma devo dire appunto, devo confessarti che forse soffro anche un po' di logorrea. Potrei tediarti se non fosse per queste ore dedicate a Frequenze Rurali. Comunque, a voi i figli. Ingarbugliami, sempre con Fela Cuti. Questo sassofono. Mi guarda. Mi dico. Esci. si popola Frittole sempre di più. Sì, si popola di... Si popola, come dicevi, di ospiti interessanti, ospitesse. C'è una bella banda, Frittole. Quindi ascoltatore, ascoltatrice, entità, stappate le vostre birrette, fate compagnia con voi stessi, a voi stessi, con noi, per voi, per gli altri. Pieno di entità, se mi permette, potrebbero fermentare la situazione. Mentre Doctor si assenta e va al bagno, abbiamo così un'altra presentazione. Tarda ad arrivare. Buonasera. Ero attardata a guardare Telegatto, che in questi giorni è il mio programma preferito, guardare i gattini nati da poco. Ciao Modesta, ma non a caso anche stasera ci sarà la rubrica dei gattini. Che bellezza, sono qua solo per questo. Non è vero, anche per vedere l'ospite d'onore. Sì, proprio tu, dall'altra parte della stanza. Pronto? Brava. Ciao Modi, ciao, ciao. Mi sei mancata tanto e devo dire che sono venuto per te, per tutti voi del corpus operandi di Frittole Studio. Un clima che ho sempre desiderato di provare, di calore e microfoni. Da fan a interprete di questa radio. Tra l'altro. Io direi da fan a interprete e da fanno, ecco, che crea calore su questi microfoni, da questo freddo metallo. E poi con diciamo, la voce suadente di Reverendo, che rinfresca gli animi con le sue manine. Per non parlare della sexy voce di Beppi. La sexy voce di Beppi. Su dai, non dite così, altrimenti poi mi arrossisco. Ma tanto non si vede in radio. Stasera è radio, lasciate andare. Sì, dato che siamo veramente scarsi, veramente scarni di contenuti, questa sera volevo iniziare parlando così della rassegna Scappa, che si trasforma in rassegna Gattini. Ma prima di tutto, in provincia di Foggia c'è un conducente di un Fiat Fiorino che ha sfondato in retromarcia al cancello carrabile della compagnia dei carabinieri di Ariano Irpino. E te è scappato. E c'è anche negli Stati Uniti un bimbo di 5 anni che scappa con l'auto, presumibilmente dei suoi genitori. Voleva acquistare una Lamborghini. Giustamente. Ma notizie migliori di questa sono dei gattini sono stati tratti in salvo grazie ai volontari dei vigili del fuoco di Taverna, direi provincia di Catanzaro, dato che troviamo questa notizia su Catanzaro in forma. Bella storia, no? Sono intervenuti il 13 maggio all'interno del cimitero comunale per il salvataggio di alcuni gattini che erano caduti all'interno di un canale interrato adibito alla raccolta delle acque meteoriche. Meteoriche, eh? Cuccioli visibilmente in buona salute venivano consegnati alla cittadina che si era prodigata ad effettuare la segnalazione di soccorso. E parlando di altra cittadinanza attiva, Frascati, grazie Frascati per le frasche, esatto, grazie al buon cuore di una cittadina, Biancaneve e Sette Nani, così si chiama la gatta che partorisce. Oh mio Dio! È stata accolta in una casa privata, grazie al buon cuore. La neomamma Biancaneve finalmente ha un posto in cui accudire i suoi sette gattini. Vabbè, basta. Questa è la profondità di neuroni spappolati. Reverendo, la esorto alla serietà più compiuta. C'è un altro articolo su lazampa.it, terribile fork di lastampa.it. Quattro cuccioli di gatto scambiano un cane husky per la loro mamma. Quando hai un bisogno disperato di qualcuno che si prenda cura di te, poco importa quanto ti assomiglia. La dimostrazione di come l'amore e le giuste attenzioni possono fare davvero la differenza ce la danno questi quattro microcuccioli di gatto che hanno scambiato un cane husky per la loro mamma. Chissà cosa ne pensa l'husky. I quattro fratelli chiamati Audi, Tesla, Ferrari e Bentley. Ebbene sì, quattro gattini motorizzati. No, terribile sta frase. Hanno dato subito prova di essere dei campioni nello svuotamento dei biberon. Direi che è più un linguaggio giuridico, ecco, più che inadatto. No, mi fa cagare st'articolo. Sa che Wombat queste frasi non le ha mai sentite. Non sono mai state pronunciate. Solo qui a Trash in compagnia puoi sentire. Si riesce a linguaggio. Ma la stagione dei gattini non dà scampo, non ha nessuna pietà per noi. E il trash si raggiungerà ovunque noi andiamo. E salutiamo la greba, noi metterei un pezzo per darci un po' di tregua, metterei Gaber che perde pezzi. Che ne dite? Vai! Il polpaccio nella mia vita non è determinante. Ne posso benissimo fare a meno. Quando m'è caduto non me ne sono neanche accorto. Ai, ai, ai, ai. Per perdo i pezzi, ma non è per colpa mia. Se una cosa non la usi, non funziona. Ma che vuoto se un ginocchio ti va via. Che tristezza se un'ascella ti abbandona. Che rimpianto per quel femore stupendo. Ero lì che lo cercavo mogio mogio. Poi dal treno ho perso un braccio salutando. Mi dispiace che c'avevo l'orologio. Ai, ai, ai. Che distratto, perdo sempre tutto. Passeggiavo senza stinchi col mio amore. Ho intravisto nei suoi occhi un po' d'angoscia. Io l'amavo tanto e ci ho lasciato il cuore. Ci ho lasciato già che c'ero anche una coscia. A una festa con gli amici ho perso un dito. Ve l'ho detto di non stringermi la mano. Son rimasto un po' confuso e amareggiato quando ho visto le mie chiappe sul divano. Che routine. Così uno si smonta. Guarda quello lì. C'è ancora una tibia. Che invidia. C'è qualcuno che comincia a lamentarsi. Che disordine in città. Io lo capisco. Tutto pieno di malleoli e metatarsi. A momenti scivolavo su un menisco. Oramai io camminavo con il petto. C'era uno senza pancia un po' robusto. Era fermo e mi guardava con sospetto. Solidale, ci ho lasciato mezzo busto. Aia. C'era lì anche un mendicante, senza gambe e senza braccia. Non lo cagava nessuno. Con quel poco che c'ho ancora me la cavo. Non mi muovo, ma ragiono molto bene. Ora c'ho praticamente un gran testone e un testicolo per la riproduzione. Vabbè, vorrà dire che non farò sport. Però mi vengono bene le parole crociate. Azioni di danneggiamento, manifestazioni pubbliche, cortei non organizzati, con l'obiettivo di contrastare e impedire l'apertura dei centri permanenti di rimpatrio e la legislazione del governo sulla gestione dell'immigrazione. gli indagati avrebbero provocato anche violenti scontri con le forze dell'ordine, danni a condomini ed edifici pubblici, scritte minatorie, offensive nei confronti delle istituzioni dello Stato, delle strutture economiche, ad esempio verso sportelli bancomat della Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Si parla anche di realizzazione e diffusione, anche con l'uso di strumenti informatici, di opuscoli, articoli, volantini dal contenuto istigatorio, tesi ad aggregare nuovi proseliti impegnati nelle loro campagne di lotta. Un'articolata trama di rapporti tra gli indagati e diversi gruppi affini, operanti in varie zone del territorio nazionale, incentrati sulla sistematica attività di istigazione a delinquere, svolta anche avvalendosi di pubblicazioni su blog e siti d'area, con l'obiettivo di contrastare, anche ricorrendo alla violenza, le politiche in materia di immigrazione e in generale le istituzioni pubbliche ed economiche, con l'indicazione di obiettivi da colpire e le modalità di azione. Se prima appunto abbiamo ricordato come sia l'anniversario della Nakba, abbiamo ricordato i territori in lotta come quello del Delta del Niger, e beh, anche qua abbiamo un po' le nostre robe con cui avere a che fare. Certo, non su quello livello lì. Noi abbiamo più che altro da fare con gente come i Ross, che anche in questi tempi qua non trovano niente di meglio da fare che arrestare un po' di compagni e affibbiare con accuse veramente pesanti il carcere preventivo a cinque nostri compagni di Bologna. Stiamo parlando in particolare degli arrestati dell'operazione che si è svolta appunto a Bologna e che ha colpito il centro di documentazione anarchico Il Tribolo. E in questo momento appunto si trova davanti a cinque compagni che sono in carcere preventivo e altri sette che hanno l'obbligo di dimora da Bologna con le firme. Quello che un po' colpisce, diciamo, di questa inchiesta che ha portato a questa ondata repressiva in tempi in cui francamente ci aspettavamo che magari le forze del disordine fossero concentrate su altre cose, è che appunto i grandi Ross e i carabinieri della provincia di Bologna provano ancora a dare il 270 bis ai compagni. E 270 bis, per chi non lo sapesse, è un articolo del codice penale che appunto si afferisce al reato di terrorismo e quindi prevede delle misure preventive estremamente pesanti. Il fatto è che tutto questo è molto opinabile. È molto opinabile anche dal loro punto di vista, e diciamo anche un po' fortunatamente, ma magari poi ne parliamo un po' più approfonditamente. E perché anche tutto l'impianto accusatorio si basa su quelli che sono più che altro dei reati d'opinione, senza tanto non sono afferite ai compagni, diciamo, dei reati particolari, danneggiamenti eccetera, ma più che altro appunto, come si leggeva prima, delle condotte. Sì, non sarebbe di certo la prima volta in cui si condannano le idee più che i fatti. Riceviamo anche un aggiornamento sul pad dalla pagina Facebook di Rete Bolognese di Iniziativa Carceraria, che sta seguendo la vicenda sul loro blog oltreilcarcere.noblogs.org, e comunque ci dicono che oggi c'è stato l'interrogatorio di garanzia in videoconferenza, gli avvocati hanno avuto modo di vedere tutti, si sono potuti vedere a vicenda e stanno bene, il morale è alto, dicono di non preoccuparsi, sono in isolamento per quarantena. In cella con le mascherine. Sperando di no, dai. Guido e Duccio sono nella sezione dei nuovi giunti a Ferrara, hanno potuto fare l'aria da soli, probabilmente anche Leo e Zip sono ai nuovi giunti ad Alessandria, non gli hanno fatto fare l'aria però, e non sappiamo ancora le ragazze a Vigevano e Piacenza cosa gli sia successo, e gli avvocati sono stati oggi a Ferrara e nei prossimi giorni andranno a vedere tutti gli altri. E c'è anche attivo una cassa di solidarietà che, per chi volesse portare la propria solidarietà attraverso il sostegno economico, e c'è un conto e i soldi ricevuti saranno usati per le spese legali. Insomma, andate o sulla pagina Facebook di Rete Bolognese di Iniziativa Anticarceraria, oppure c'è oltreilcarcere.noblogs.org. Una gran brutta storia. Però abbiamo un audio anche. Abbiamo un contributo d'analisi. Sì, che abbiamo ricevuto e volevamo condividere con voi. Dai, vai, lo mandiamo subito. Maggio 2020. Questa mattina ho aperto gli occhi alle ore 8:30. Ho acceso il telefono e ho cominciato a bestemmiare. Altre persone arrestate, questa volta a Bologna. Scuoto la persona che mi è accanto, svegliandola, e mi dispiace di non aver avuto tatto, ma in quel momento la vita non lo concedeva. Mentre faccio il caffè penso, così non può continuare. Ho paura che chi aprirà i giornali e non è minimamente coinvolto nella questione possa pensare... Beh, avranno fatto qualcosa. Non si va in carcere senza un motivo. E difatti un po' è vero. Ma i motivi possono essere tanti e nessuno, a mio avviso, è un buon motivo per finire in carcere. Ma poi ho pensato, se adesso dovessi iniziare una conversazione con quel tipo che legge l'articolo e pensa «Vabbè, qualcosa avranno fatto, qui scrivono addirittura che sono terroristi», e volessi spiegargli le ragioni che spingono delle persone ad odiare il carcere, forse non mi capirebbe appieno, nell'immediato. Che poi non è che ci sia nulla da capire, è solo che l'essere umano è complesso e le disuguaglianze sono tante, e alla fine ci sono tanti motivi per cui potresti trovarti in carcere, ma che la libertà è troppo bella e il carcere è una risposta troppo stupida, per qualunque tipo di reato, anche quello più brutto. Ad azioni complesse devono rispondere risposte complesse. Il carcere non è una risposta complessa, è solo mera privazione della libertà. Ma a parte questo, che è un discorso probabilmente banale e poco complesso per come l'ho composto, ho pensato che però tanta gente doveva sapere che le persone che sono state arrestate oggi non sono terroriste, ma persone meravigliose, con degli ideali elevati di libertà. E se proprio dobbiamo utilizzare questo termine dove al suo interno detiene la parola terrore, beh, allora tutti, e proprio tutti, dovevano sapere che il terrore lo esercita lo Stato, o il potere, o chi per lui, ogni giorno. Non è che se domani non c'è più lo Stato siamo salvi, eh? Il potere ha tentacoli ovunque. Ma semplificando, nello stato delle cose, lo Stato è uno dei principali detentori di potere. Ed è anche l'unico a poter detenere legittimamente, beh per loro, non per me, il potere di esercitare violenza. Ho cercato su tre cani terrore, sentimento e stato psichico di forte paura o di vivo sgomento, in genere più intenso e di maggiore durata che lo spavento, suscitare terrore, incutere terrore. Ecco, allora ora tutti capiranno. Cos'è che suscita terrore? Cos'è che incute terrore? Ma per esempio Minniti che firma l'accordo con la Libia donando 5 miliardi di euro in cambio di un pattugliamento costante della costa per impedire ai migranti di partire. L'idea stessa che delle persone per viaggiare debbano chiedere un visto o un permesso, quando io ad esempio, senza contratti lavorativi fissi e senza una lira e senza un visto, posso viaggiare in 178 paesi su 192 nazioni riconosciute. Sapere che dei miei amici hanno provato 3 volte ad attraversare la frontiera turca e hanno visto dei compagni morire. Sapere che dei miei amici hanno subito violenza in Libia. Oppure l'Ilva, la Caffaro, i pesticidi, i morti per inquinamento, i morti per lavoro. La legge Bossi-Fini, che già dal nome è un biglietto per il cimitero. il deputato leghista Alessandro Pagano, che dichiara neoterrorista Silvia Romano. Il decreto sicurezza! La gente che pensa che a questa età non si debba più pensare a lottare, ma continuano tristi a non chiedersi il perché dei loro lavori. Questa retorica ridicola del lavoro nero dei migranti con la sanatoria che regolarizza solo per 6 mesi. Il distanziamento sociale, il sovrapporsi del virtuale al reale. Le carceri che imprigionano. I CPR che imprigionano. Repubblica.it, che nella sua finta democrazia ha fatto danni irreversibili e ha impugnato un potere indiscusso. Ora tutti capiranno, no? No? No. Probabilmente no. Ma mi basta di aver capito io da che parte stare. Il vento soffia forte e non si può fermare. Noi siamo i poveri, siamo i pezzenti, la sporca plebe di questa età, la schiera innumere dei sofferenti, per cui la vita gioie non ha. Nel crudo inverno la nostra prole per lunga inedia languir vediam. Solo per i ricchi risplende il sole, mentre si esultano noi fame abbiam. Per natura tutti uguali, più diritti sulla terra. Noi faremo aspra guerra ai ladroni sfruttator. Non sia pace tra i mortali, finché un uomo sovra altro imperi. I nemici a noi più fieri sono i nostri sfruttator. Siano poi terroristi, su chi siano, su chi sia, chi spande il terrore, chi spande la paura, insomma, queste sono considerazioni che si sono già fatte ai tempi dei processi contro Notav, ai tempi dei processi di altri, quando sempre questa accusa è stata lanciata contro chi invece portava avanti semplicemente le sue idee, oppure appunto combatteva per la libertà e per delle cause che ricevevano un vasto appoggio. Sì, insomma, che è una situazione di merda lo sapevamo, forse non ci aspettavamo che anche in tempo di emergenza sanitaria la priorità fosse quella di arrestare gli anarchici e restare gente che la pensa diversamente. Noi speriamo che tutto questo, come già successo molte altre volte in questi casi, si risolva in una soluzione. Speriamo che il Tribunale per la Libertà, che probabilmente sarà il prossimo passo, tiri fuori dalle galere e le nostre 5 compagne eventualmente dentro. E soprattutto perché, come dicevamo prima, insomma, va bene se si parlasse di carcerazione preventiva per prevenire dei reati, ma qua si parla di carcerazione preventiva per prevenire il diffondere di un'idea del mondo, il che francamente, insomma, che dire, dovrebbero metterci dentro anche noi, cioè. Dillo, baby. Sì, c'è anche da dire che la procura scrive nero su bianco che lo scopo è quello di prevenire le tensioni. comprimere le tensioni, sì, e questo infatti è un aspetto preoccupante. Adesso voglio vedere se un giudice, se un qualsiasi giudice avrà il coraggio di confermare questa roba, perché praticamente infatti il carcere preventivo anche viene giustificato dal fatto che c'è l'emergenza del Covid, e quindi dire che la situazione nelle galere è pesissima, soprattutto in questo tipo, quando c'è un'emergenza sanitaria, che i detenuti hanno i loro diritti e che forse il carcere non dovrebbe esistere, partecipare a dei presidi può essere molto pericoloso. Pericoloso per chi? Sì, insomma, vediamo quanto tempo ci metteremo a poter uscire per strada e dire che non ci sta bene questo mondo. Diciamo che le videoconferenze non mi bastano. E in attesa di aggiornamenti su questa questione qua, intanto mandiamo tutto il nostro abbraccio caloroso. Assolutamente. A Elena, Leo, Ozzy, Pepe, Stefi, Nicole, Guido e Duccio. I riferimenti sono, insomma, li trovate comunque, sono Elena Riva e Nicole Savoia, Strada delle Novate 65 a Piacenza, Duccio Cenne, Guido Paoletti, Via Arginone 327 a Ferrara, Giuseppe Caprioli e Leonardo Neri, Strada Statale 31 5A, località San Michele ad Alessandria, e Stefania Carolei, Via Gravellona a Vigevano. E comunque chiunque voglia rendere visibile e testimoniare la propria solidarietà ai compagni può inviare una mail a soscarcere@autistici.org. E bella lì. Vi mandiamo i NoFX in 8 bit per sdrammatizzare un pochino. Ritorniamo, sono le 8, è già passata un'ora, proviamo a finire la prima ora insieme a voi, insieme a tutti noi. Andiamo con Asamoto, ci accompagna, E sì, e volevamo appunto, per finire in bellezza questa prima ora di trasmissione tutto assieme a voi, leggervi un po' che cosa dice il nostro aggregatore di notizie preferito in questa fase. Arcorella. Cioè, Arcorella 2000. Fase 2, dal governo, ok alla riconversione dei bassisti in raccoglitori stagionali. Dopo giorni di intense trattative, rese urgenti dalla quantità di frutta e verdura che rischiano di marcire nei campi, ieri finalmente è arrivato dal Ministero dell'Agricoltura l'ok al piano di riconversione dei bassisti lavoratori stagionali per la raccolta. Progetto, fortemente voluto dalla ministra Bellanova, è nato dall'impossibilità di rivolgersi alla tradizionale manodopera straniera, ma risponde anche alla scarsa utilità di questo genere di musicisti, già nota da tempo, ma adesso ancora più sotto gli occhi di tutti. Si tratta nei numeri di un'enorme forza lavoro, abituata a grandi fatiche e al non ricevere alcuna gratificazione per il compito svolto. E, fanno notare i tecnici, con una forza nelle dita in genere maggiore a quella dei chitarristi, abituati come sono a stringere corde metalliche di maggiore diametro. I bassisti, la cui adesione al progetto sarà obbligatoria e non facoltativa, saranno ricompensati con una paga di 1 euro all'ora. Non molto, ma sempre di più di quanto ricevono suonando il loro inutile strumento. L'arruolamento prenderà il via lunedì. Si calcola anche grazie a questo progetto saranno gli stessi gruppi ad avvantaggiarsi, dato che con la riapertura delle sale prove lo spazio a disposizione sarà di certo maggiore con un membro in meno. Quanto alla salute dei bassisti, invece, la ministra Bellanova ha dichiarato di non aver previsto alcuna misura precauzionale, ma di essere sicura che tutto andrà tutto bene, in quanto persona molto religiosa. Hashtag. Se dovesse esserci un boom di contagi, conclude la ministra, ce ne faremo una ragione. Si trattava comunque di risorse sacrificabili. Alla fine però sono sicura che i bassisti vi ringrazieranno, molti di loro faranno per la prima volta qualcosa di utile nella vita. Tra l'altro il comitato tecnico scientifico ci teneva molto a ribadire anche all'attuale ministro dell'agricoltura come l'indice e il dito medio siano, diciamo, ottimali, soprattutto quello dei bassisti, per scerbare nei campi di fagioli vista la stagione in arrivo tra calure dalle 5 della mattina alle 11 con medio raggi soleggiati che arrivano a battere sul capo. Che idea geniale davvero. Doctor, cosa ne pensi? Proprio tu. Io sono veramente felice di aver di essere. Non lo sapevo. Guarda, grazie di questa novità che finalmente, come dice l'articolo, posso dare un senso alla mia vita, in quanto ho passato quasi ormai 10 anni da bassista, ma avevo una frustrazione addosso. E ai concerti quando riuscivo a sentirmi un po' di più col basso mi dicevano era troppo alto e quindi mi dovevo abbassare, quindi mi sembrava di suonare l'aria, cioè di suonare nel nulla, non mi sentivo neanche io. Quindi ora finalmente andare in campo, io resto in campo e è molto più gratificante. Tra l'altro ora ti dovrai solamente abbassare per raccogliere o estirpare. Salutiamo tutte le bassiste e bassisti all'ascolto. Era uno scherzo. Paura, eh? E grazie al Corella 2000 per le perle che ci regali quasi ogni settimana. Arcorella. E quindi infatti una puntata sul futuro dei musicisti andrà fatta prima o poi. Quanto è veramente Pare che nella fase 2 sia concessa la trash post concerto, ma niente concerti qui. Dopo il distanziamento in pista. Feste mascherate. A proposito, ricordiamo ancora una volta, presto in arrivo le nuove mascherine serigrafate a Radio Wombat, presto disponibili in tutte le distro di tutto il mondo. Già, io lo sto aspettando. Saranno FFP3? Assolutamente. Ricordiamo che a Frittole, dopo ogni puntata, disinfettiamo le tastiere. E i microfoni sputacchianti. E salutiamo i compagni di Radio Wombat, che hanno ancora la pazienza di ascoltarci e di ospitarci sulle loro frequenze. qui con voi agli studio di Frittole Palmiro, con la direzione vellutata di Mr. Reverendo, dottor tutti noi alle spalle a consultare gli oracoli su questo mixer. Yo. Oh. Ok. Va bene. Dice che in genere Blatter ha di patologia rapida, in genere in pratica la patetica opinione di distinzione sociale per naturale predisposizione. Affermazione non del tutto errata se si considera un destino più simile al mercato della finzione. Yo. Thank you. Implica e sollecita il problema, la sua replica, ma non la soluzione. Sempre, sempre nei soliti giri di parole. Avanzando legalmente alle sue prudenze di bacca, ti esclamo: tu non sei di qui, no, sono cinese, cazzo, è una palese. Ma storia un altro paese, quindi lascia stare e fatti cazzo di dovere, visto che in ogni caso verrà fatto a mie spese. Nello spazio produttivo il ritorno dell'oppressore primitivo, schiava a sua volta della propaganda poco accorta di chi è incline, ma non disposto alla rivolta. Dall'83 Fritto e Studios, dalle 7 alle 8 e per il resto rimango distratto qui con voi in chiusura, aspettando la fine. Yo, qui con voi dagli studio di Frittole Palmiro. Grande Palmiro, sei veramente un bomber. Non ho nient'altro da aggiungere. Ce la devi far più spesso però, eh. No, effettivamente bomber era chiuso. No. Questo microfono è chiuso? No. Ok. No, bomber era il complimento che mi aspettavo. Il Nirvana. Comunque ti aspettiamo qui ogni venerdì dalle 7 alle 9. Su Frequenze Rurali qui per voi, venerdì sera, Frequenze Vaghe. Idee confuse e parole salde su questo mixer. Ti aspettiamo Rosa. Ma nel frattempo sono arrivate altre persone, altre voci. Mulo, Morgana e una nuova ospite in vita. Sì. Che bellezza! Oh. Sono emozionato. Sì, welcome back. Sì, eravamo passati qua perché c'erano le locandine del live di Palmiro e non volevamo perderlo. L'abbiamo visto a Firenze, siamo saliti a piedi, siamo arrivati un po' in ritardo, però queste sono le norme. Grande rapper Palmiro, è veramente una persona incredibile, l'ho incontrato in mezzo ai boschi qualche tempo fa e da allora non ci siamo più separati per un mese, camminato assieme e... Tra la 00 e una strada piena di amore. Esattamente, che era mi pare la 17, stando al codice CAI, sì, Club Alpino Italiano. Sì. Il numero dell'amore, 17, il nuovo numero dell'amore. Sì. Abitiamo io e Palmiro in due colline adiacenti che per raggiungere appunto i Casali via automobile ci si impiega 20 km, per raggiungerci via piedi ce ne si impiega 6. Sì, tra l'altro mi è giunta questa nuova notizia, ora leggevo appunto sulla Gazzetta della Repubblica, c'era qualche scienziato che appunto è diciamo ancora una teoria, ma a quanto pare il moto, diciamo il movimento in sé ancora fa bene, dice può fare bene al cuore, alla circolazione, al cervello. Notizia tra l'altro è conoscenza deduttiva a me sai sconosciuta, tra l'altro il fatto che cioè sempre solo imparato a utilizzare le macchine, le automobili, e camminare è un'azione che mi è nuova effettivamente. Ho provato e devo dire che non è stato niente male, un po' di confusione, un po' di... Però un fiume di parole che si è trasformato in quello che abbiamo anche sentito, eh. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono nuovo di queste parti, vi saluto. E tra l'altro, due parole dietro. Sì, è un bello sport camminare. Anch'io in questo periodo, in questi due mesi di quarantena, ho scoperto la camminata e è molto salutare, lo consiglio a tutti. Grazie Palmiro, sei veramente un fabulatore, come dicevo all'inizio della puntata, non riesco a non ascoltarti, le tue parole mi mandano in uno stato che non esiterei a definire di trance. Grazie. Doctor, io... è uno sport, la trance, provatela. È consentita nella fase 2, praticare trance. Consenziente, tra l'altro, uno sport consenziente. Vabbè, è arrivata Rosa nel frattempo, si può dire? Sì! Comunque, che la svolta tutta la redazione questa Rosa, perché mi sembra che dopo il freestyle di Palmiro, ecco, ci sia un vuoto di scaletta almeno di qualche secondo. Ma non è vero. Ma non è vero, meno male. Ma la dolce Rosa ci può raccontare della sua, del suo allenamento in compagnia di piccole bestioline? Radio Gattini? C'è un sacco di gente là fuori. Sono tutti a camminare, a correre col cane, senza cane, incredibile, con la mascherina, senza mascherina, con la mascherina gattini in testa. Col cane con la mascherina? No. No. Manca ancora. Insomma, benvenuta Rossa, sei stata grazie fuori, hai corso fino a qui, sei arrivata qui per dirci un sacco di cose, intanto buonasera. Buonasera. Accomodati, hai dei cavi in mano. Sì, sto cercando la presa. Adesso chiediamo agli inservienti di trovarla, te rilassati. Le si sta animando come non mai. Sì, voi non avete presenti i metri quadri di questo luogo, ma facciamo veramente fatica a starci. Una piramide umana. E qua dallo studio di Radio Contagio adesso vi salutiamo con un piccolo pezzo per tenervi compagnia in questo momento. Boccia deve stare a cercare, stai a far silenzio al microfono, c'è più la voce. Lost and never seen. Every time I start to believe, something's waiting, taken from me, from me. That's why I've been messing with me. Can't they tell him, let me be free? Can't I take away all this pain? I try to ignite all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me fall from grace. Something takes the part of me. You and I were meant to be. A cheat for me to lay. Something takes the part of me. Feeling like a break on the leash.

Gli asini che ritornano al lavoro da Soma devono essere sottoposti a termoscanner, che una volta si diceva provarsi la febbre due volte al giorno. Qualora risultino febbricitanti, devono essere posti in isolamento e lasciati morire di tristezza. È fatto divieto alle talpe, alle lepri, ai fagiani, agli istrici, nonché ai caprioli, ai tassi e ai cinghiali, ma anche alle donnaiole e alle faine, eppure alle volpi e ai topolini, di circolare liberamente per il campo in assenza di comprovate esigenze lavorative. Tutte le rondini saranno sottoposte a quarantena preventiva. I ricci, che erano rimasti bloccati dai precedenti DCPM, possono fare ritorno alle loro tane. È fatto divieto ai ghiri di andare sotto il tetto delle seconde case. Le rane possono accedere allo stagno soltanto due alla volta, rispettando le distanze di sicurezza. Le api potranno ritornare al lavoro soltanto il 18 maggio, ma anche quest'anno dovremmo fare a meno del miele d'acacia. I fuchi, risultati tutti asintomatici positivi, saranno sottoposti a quarantena. Gli uccelli possono riprendere a volare, ma solo se dotati di braccialetto elettronico e di razzi traccianti incorporati. Le oche possono uscire dal recinto solo per fare la spesa e per buttare la spazzatura. È fatto altresì divieto assoluto ad api e formiche di continuare a vivere in alveari e formicai. Saranno al più presto stanziati fondi per la costruzione di cellette isolate. Vigerà per le api il divieto assoluto di sciamatura almeno fino al 18 giugno. Dopo questa data sarà possibile, ma solo a gruppi di tre e mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro. I fiori da visitare saranno rigorosamente sottoposti a controlli e sanificati all'autorità garante di sicurezza degli insetti, GSI, tre volte al giorno. Tutti gli animali devono comunque motivare i loro spostamenti con apposita autocertificazione all'ufficiale anatroccolo Lillo o ai suoi superiori Gargamella e Birba. Piselli e fave non potranno essere raccolti e commercializzabili, poi ho perso il segno, perché impossibilitati a rispettare nei rispettivi baccelli le distanze di sicurezza. Sono aboliti i contenitori da 4 uova perché incapaci di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza. Si possono usare i contenitori da 6, ma riponendovi soltanto 2 uova alle opposte estremità e lasciando vuoti gli altri 4 spazi. Le uova dovranno comunque nella scatola indossare i dispositivi di protezione individuali. Sono riaperti, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, i cantieri delle vespe muratrici. Gli alberi troppo vicini, incapaci di rispettare il distanziamento, saranno abbattuti. È vietata la semina a postarelle di fagioli e fagiolini. È fatto divieto ai colombi di sostare sui fili della luce e agli storni di volare in stormo. I gatti possono avvicinarsi alla ciotola soltanto uno alla volta e devono altresì igienizzarsi le pattine con apposito gel igienizzante prima e dopo aver mangiato. Il cane del vicino può uscire dal cortile solo per andare a far visita a comprovati affetti stabili o amicizie vere. Tutto ciò che canta il gallo sarà sottoposto a verifica da parte di fact checkers indipendenti nominati dall'apposita task force di struzzi, guidati dai tecnici del consorzio in collaborazione con John e Solfami. Si raccomanda ai conigli di evitare formicazioni. Le serpi potranno strisciare solo con i guanti. Alle mangiatoie delle vacche saranno applicati pannelli separatori in plexiglass. Le capre anziane non potranno uscire dallo stallino fino al nuovo DCPM. Sono stanziati incentivi per l'uso del diserbante che, dopo test accurati, è risultato essere di fondamentale importanza nella lotta ai virus che si annidano tra l'erba. Buffetta infermiera si occuperà di fare tamponi a tutti gli acari che vivono sul tappeto. Puffo Brontolone sarà processato per disfattismo e complottismo. A tutti gli abitanti della fattoria, siano essi mammiferi, uccelli, insetti, anfibi o rettili, sarà presto iniettato un vaccino digitalizzato contro il pensiero critico, benché l'immunità che il gregge ha sviluppato nei confronti di questo virus abbia ormai già dimostrato l'inutilità del vaccino stesso. Il capo dei Puffi Mascherati, 2 maggio 2020. E ringraziamo Bianca Bonavita per questo fantastico testo che metteremo nella sezione testi rubati perché ci è giunto in redazione, diciamo, un po' di traverso. E vi annunciamo che stiamo preparando la festa per la premiazione di tutti i partecipanti del concorsone, che ormai sta giungendo quasi al suo termine, forse. Quindi affrettatevi a scrivere gli ultimi pezzi. Che dite, vi è piaciuto? A me è piaciuto tantissimo. Sì, grazie Bianca, veramente, dalla tua mente geniale scaturiscono sempre delle perle che ci fa sempre piacere condividere, come l'altra volta è successo qui in radio. Sì, riflessioni come, ma anche in questo caso, questo racconto fenomenale che, boh, non so, per me entra direttamente nella top 3 del nostro concorso letterario. Non so, voi che ne dite? Sì, io non mi ricordo le altre due, però sono d'accordo. È molto dettagliato, molto interessante. Ho una preoccupazione che il vaccino per il pensiero critico poi lo facciano davvero e c'è già. Chissà che non l'abbiano già un'idea. Fatto. Per questo vi invitiamo a riempirvi di anticorpi contro il vaccino con il pensiero critico ascoltando Radio Wombat sempre durante la vostra giornata, qualsiasi cosa facciate, siete chiusi in casa, sia che rimaniate chiusi in un campo di patate o da qualunque parte voi vi troviate, ascoltate Radio Wombat. Vai, vado a pezzo. Caramellaio, quanto spreco, predisponi e porti teco tutta la tua mercanzia, toccherà buttarla via. A questa corte domin retti, dan fastidio i tuoi confetti. Fuori esci dal portone, non tornare più. Si è fatto, io esco, ma prima ripesco quel piccolo rosa bonbon. Cascato in mia corte, al di qua delle porte, quindi è per statuto mio. Santi Dio. Ho questo gusto dolce, soffice e robusto, vale molto più dell'oro, fuori esce da ogni collo. Caramellaio, su questa dieta fonderò la mia spesa, dammi tutte quelle cose che io vedo qua. Ciliegia, cannella, sottopeso. Dai, io son panzone, pure in crisi d'astensione, saccarina ed aspartame, mi dirigono la fame. Sento la mezza che è rintotta, eppure ho piena ancora la bocca, dalla sera alla mattina la rimpinzerò con ghiotti dolci. Troppo tardi, mio buon sire, resta solo una caramella per la piccola mia sorella. Chi se ne frega di chi è quella? Voglio l'ultima caramella. Non costringere il mio addome ad inseguire te. Guardi, misero soldato, rincorrete quell'ingrato. Se ne fugge col confetto sulla fonte di diletto, riportatelo al mio cospetto. contrario. Vieni, non ti farò del male. Ti voglio sgridare, né ammonire, né parlare, o retarguire, multare, o sculacciare, o tantomeno né cambiare le maniere, né percuotere, né sedere, né spiegarti se hai sbagliato ad ingiardire il tuo creato. Ma voglio solo guardarti le budella, guardarti le budella, avere stanno le caramella, guardarti le budella, guardarti le budella, avere stanno le caramella, guardarti le budella, guardarti le budella, avere stanno le caramella, guardarti le budella, caramellario. Faccio il ciao. Della fine di questa serata tra Reverendo e Dottor, tutti noi Dottor Lui, tra la folla di Frittoless, siamo qui in attesa di un perché, di una fine, di qualcosa che possa far chiudere, di un per come, per come e per quando. Sì, abbiamo uno spottino qua pronto, un percorso. Percorso per chiudere questa bellissima puntata che abbiamo passato insieme. E voi, numerose entità all'ascolto, cosa ne pensate? Attendiamo con intrepida impazienza i suggerimenti. Qua su Frequenze Smarmellate ricordo ancora una volta i nostri contatti: wombat.noblogs.org, il blog fantastico su cui trovate tutti i podcast e tutte le radio. Posso intervenire un attimino? Perché, caro dottor, io tu mi dici no, mi censuri, però io ho notato una deriva su che vira verso il sexy nei toni di questi conduttori, invece che nella vita normale parlate tutti e quattro in questo modo. Mi viene a chiedere il perché. Io ho la mia teoria. Io volevo, ecco, avere, non credo di aver colto bene, cioè non tanto il concetto, se non diciamo l'inizio dell'intera frase con cui hai principiato questo tuo ragionamento, okay. Questa tua teoria del sexy, che forse mi sono perso. Sì, caro Palmiro, c'è una differenza fra perdersi e ascoltare gli altri, nel senso, e su questo ti do perfettamente ragione. Ora, il discorso è semplicemente questo, che da quando i tuoi poderosi bicipiti hanno fatto il loro ingresso nello studio di Frittole, ho notato un aumento del testosterone medio, che appunto porta la voce a essere espressa in queste frequenze più basse, ed è assolutamente innaturale. Adesso io chiaramente capisco l'invidia, capisco anche il desiderio di... Io scusa Mulo, non capisco a cosa ti stai riferendo. Questa è la mia voce normale, e inviterei le entità all'ascolto a farci sapere cosa pensano di queste frequenze discordanti, confuse. Interrompendo di nuovo nuovamente Mulo, volevo redarguire le numerose entità e lo stesso Mulo, che non è una scelta dei miei bicipiti di parlare con questo tono, se non avendo già osservato quello che è lo scarso budget di Frittole Studios e non avrei mai voluto bucare questi microfoni con l'alto della mia voce. Ah. A te lo studio. Ah, quindi rimandi al mittente tutti i problemi, realtà, cioè questi microfoni fanno cagare la mia voce. In realtà siamo tutti bassisti, aspiranti contadini. Questa cosa mi è stata fatta notare anche dal pubblico femminile, che qua che... cioè, c'è della segatura in studio. E come non poter dar torto a il signor Mulo, che con le sue elucurazioni ci fa sempre, diciamo, riflettere alla fine di queste serate, che effettivamente è questo il problema, è proprio questo il problema, che non dovresti riflettere troppo. Effettivamente, come un nostro caro amico in comune, un amico, ecco, diciamo un conoscente comune a me e a Mr. Mulo, la famosa citazione che pensare fa male a chi non è abituato. Quanta saggezza in una sola frase. E qui con Beppe. Sì. Allora, nel salutare tutti un sacco di nostre amiche, nostri amici, conoscenti, zii, parenti vari, vi abbracciamo tutti, anche se ci sono le distanze da rispettare. Vogliamo arrivare al vero nocciolo della questione. Tu hai indosso una chitarra Epiphone modello 507 perfettamente accordata a Palmiro, ma perché tu indossi un oggetto di questo genere? Ecco, non riesco proprio a capire. Io sto indossando... Aspetta. Forse ho avuto un delay spazio-temporale, perché non... forse ho un ritardo, credo. Forse la Epiphone buo. A cui... tra l'altro... La Epiphone... Scusa, vuoi ripetere? Non credo di aver tu capito fai bene. Fai sexy ma sei buo. Io sono apertamente buo, ragazzi. Mulo vuol dire che i gay non sono sexy? Tra l'altro. Attenzione. Comunque, la Epiphone a cui cambiamo subito registro. Argomento. E qui con noi dottor Lui, dottor Io, che improvviserà in questi ultimi 8 minuti di Frittole Studios a frequenze vaghe una bossa nova. Grazie a tutti. Io improvviserò solo una base sulla quale tu dovrai cantare. Il testo a cui noi facciamo riferimento, che potrebbe essere, diciamo, un testo prettamente, diciamo, implicitamente politico, si chiama A Fogo, un riadattamento bossa nova da una canzone degli Infame, un pezzo punk hardcore. Affogo nel tuo delirio. Non so sterzare e ti vorrei investire. Spero tutto bene, ma se va troppo male, sta arrivando un temporale. E si sta per scatenare. Nuvola bianca, grigia, viola. Nuvola bianca, grigia, viola. Nuvola depressa, so che piangi spesso. Nuvola galleggio, su me stesso. Nuvola depressa, so che piangi spesso. So sterzare. Buonasera a tutti da Frittole Studios. Un bacio da dottor Lui in bossa nova. Sexy. Qualcuno ha visto il mocio in studio? Ringraziamo Palmiro, ci è costato 260 euro questa uscita, in più dobbiamo anche riportarlo a casa sua sfidando le norme, davvero un grandissimo cuore. Sì, sì, sì, sì, sì. 260 euro di pedaggio e benzina, tra l'altro, sì, che nemmeno il bollo. Grazie mille dottor Lui, dottor tutti noi, grazie mille a te Reverendo per questa magnifica regia, grazie al pubblico e grazie soprattutto a Beppi per le sue riflessioni sull'attuale contesto socio-politico ed economico che riguardano tutti noi, grazie mille a Mulo, grazie mille a Modi e a tutti i presenti qui a Studios. Ha gracchiato sul nome di lei. Modi. Grazie mille per l'invito, buona serata a tutti. Ciao. Dov'è il mocio? Non trovo il mocio. È uno speaker nato, lui è fatto così. Mandiamo l'ultimo spottino e l'ultimo pezzo, poi ce ne andiamo a mangiare. Cazzate. Anche questa è finita. Ascolta le repliche. Accedi al nostro blog. Su Radio Wombat, se avete il coraggio, il palinsesto continua e noi purtroppo ci sentiamo venerdì prossimo. Grazie Albus, siamo totalmente disfatti e distratti.